in superficie ed un nodo nelle gole. Scegli bene le parole che a suo tempo torneranno scalze senza suole. Mentre faccio questo esempio ti rispondo con un tempo sbagliato, brucio il dolce nel forno. Vorrei tanto concentrarmi sulle cose secondarie, fare fuoco sui dettagli. Ci perdiamo quasi tutto, anche gli alberi qua ai lati sono scie orizzontali. Mentre te lo sto dicendo, lavi i piatti e te ne vai a letto. Però nel correre sembriamo due astronauti, tocchiamo terra senza gravità e gravemente sbaglio tutti i calcoli. La fisica la studierò, la vita che verrà. Andare a 3000 mi ha semidistrutto. E sarebbe opportuno capissimo entrambi che la vita non si pesa in euro e nemmeno in grammi. Sono così brava a scappare lontano senza guardarmi mai dentro.